questa bocca di sole che mi toglie le parole, yeah. Gloria ai tempi d'oro, io vi vorrei rivedere almeno prima di fare 101, yeah, yeah, un peccato morire, yeah, yeah, yeah. Gloria, siamo fiori, questa bacca di vita che davanti all'incontrario va, yeah, yeah, all'anima mia, a questa botta di sole che mi tace le parole, yeah, yeah, yeah, yeah. Gloria, siamo fiori, yeah. Peccato morire, la nuova canzone di Zucchero sulla radio 100%, grandi successi. Pochi minuti fa vi ho invitato a tenere alta la soglia d'attenzione perché è il momento di scrivere Elvis e inviare un SMS al 392-999-2000 per vincere il nuovo album Viva Elvis. RDS, anteprima. Un album che arriva nel 75esimo anniversario del compleanno di Elvis Presley, è un modo per rendere omaggio alla sua musica. Martedì 9 novembre verrà pubblicato Viva Elvis, una grande anteprima esclusiva della radio 100% grandi successi, un appuntamento che vi fa ascoltare delle canzoni nuove strepitose. I'll make you so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll make you so lonely, I could die. Oh, the devil's tears keep flowing. And the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street. They'll never look back and think you're so. I'll make you so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely. You could die. 2 999 2000, il numero a cui inviare un SMS con scritto Elvis per vincere Viva Elvis, questo lavoro capolavoro postmoderno realizzato in studio che invoca lo spirito, diciamo l'essenza di Elvis, e reinventa le sue canzoni con una serie di ambientazioni musicali differenti, come nel caso di questa Blue Suede Shoes. All right. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but I'm a honey, lay on blue shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, car, ordering my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, honey, lay off of my shoes and don't do dab on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. In anteprima esclusiva su RDS l'ascolto di Viva Elvis, l'album che uscirà il prossimo martedì per celebrare i 75 anni del grandissimo re del rock and roll, e tra l'altro queste musiche faranno parte del nuovo spettacolo delle Cirque du Soleil. Questa è That's All Right. Bellissima sfida, se vogliamo, sia per i produttori che per gli arrangiatori, diciamo, porsi questo interrogativo: come suonerebbero le canzoni di Elvis se le interpretasse oggi per la prima volta, soprattutto con una chiave completamente diversa da quella di allora. Questo è Viva Elvis, una grande anteprima esclusiva della Radio 100% Grandi Successi RDS. Lo potete vincere con un SMS al 392-999-2000 nel corso di questo pomeriggio, e ricordate che anche su rds.it avete la possibilità di vincere cliccando e partecipando al concorso online, e soprattutto avete la possibilità di riascoltare queste tracce, come una volta vi ripeto, in anteprima. Arriva Alicia Keys adesso con la sua No One. I just want you close, where you can stay forever. You can be so that it will only get better. You and me together. 14 minuti dopo le 5 del pomeriggio, buona domenica a tutti da Manuel De Vella, c'è Luca Berardinelli che si occupa del mixer, il weekend RDS dedicato ai fantastici 80s, gli anni 80, li stiamo rivivendo attraverso una serie di ricordi indelebili, come faremo tra poco, ricordando quelli che sono stati i primi videogames. Anche questa notte state in guardia, viaggiatori. La città è furba, vi mostra solo quello che vuole e vi porta sulla strada sbagliata. Sappiatelo, cercherà in tutti i modi di darvela a bere, gettandovi anche fumo negli occhi. Con Smart New Generation, la città è ai tuoi comandi. Sistema multimediale navigatore integrato, nuovi colori, nuovi interni, nuovi cerchi. Negli Smart Center dall'8 al 13 novembre. bsmart.it. L'energia che consumi può consumare l'ambiente. Ecco perché Sorgenia continua ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sorgenia, l'energia sensibile. Ogni giorno tante storie, gesti, emozioni, sentimenti che si intrecciano. Più di 500 anni, Banca Monte dei Paschi di Siena è con te, nella vita di tutti i giorni. Monte dei Paschi di Siena, una storia italiana dal 1472. State per sentire 299 cavalli al massimo della loro potenza. Oggi 299 cavalli di Lexus RX 450H Full Hybrid pesano solo 140 grammi di CO2 nella nuova versione a trazione anteriore e con full leasing di Lexus Financial Services RX può essere tua a 440 euro al mese. TAG 7,35%. Fogli informativi in concessionaria. Emma ha rovinato la sua vita. Sta dicendo che dovrei annullare il matrimonio? Sì. Lui ha promesso di vendicarsi. Sono sposato. Cosa sono io? Lei è già sposata. È impossibile. Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan. Un marito di troppo. Dal 19 novembre al cinema. Vai su rds.it e scopri come vincere l'anteprima del film nella tua città. RDS insieme a te. Trasmettiamo voglia di partecipare. Ho partecipato a tutti i concorsi di bellezza del paese. Ho comprato tutti i biglietti per la lotteria della mia città. E ho visto tutte le partite di calcio più noiose per le scommesse. Ma tutto questo non è servito a nulla. Cosa devo fare per vincere? Acquista da Unieuro una stampante multifunzione HP Photosmart. Puoi vincere tantissimi premi come un weekend in barca a vela. Scoprili sul sito HP. E ricorda sempre solo cartucce a getto rinchiostro originali HP. Promozione valida fino al 31 gennaio 2011. Sono Bob Sinclair. La mia musica parte da qui. Piatti, mixer, vinili. Materia senza anima. Ma in quella puntina c'è un'energia che cresce. Alfa Meta Black Line Collection. Con clima e cerchi in lega. Da 12.900 euro. E su tutta la gamma Mito 3.000 euro di ecoincentivi. Scopri la sabato 13 e domenica 14, anche con il nuovo cambio automatico Alfa TCT. Dare vita alla materia significa trasformarla in emozione. Alfa Meto, Energy Machine. Offerta valida in caso di rottamazione nei concessionari aderenti fino al 30 novembre. Un reggiseno nuovo? Uno slick? Un body? Concediti tutto con Triumph. Acquista due capi di intimo Triumph. Avrai lo sconto del 50% sul terzo. Triumph. Niente ti tenterà di più. Soggetta a normativa locale. La crisi colpisce le vacanze degli italiani. Secondo le ultime ricerche, sono in aumento gli italiani che viaggiano sempre più spesso, addirittura tutti i weekend. Sono uomini, donne e bambini di tutte le regioni. Come facciano a viaggiare così tanto rimane un mistero. Il segreto di chi viaggia sempre è il camper. Anche in autunno, ogni weekend è una vacanza diversa. Nessuna prenotazione, nessuna attesa. Devi solo partire. Scopri dove su scegliilcamper.it, associazione produttori caravan e camper. Ehi, sapete qual è la prima regola del buon vicinato? Avere tutto senza limiti di Telecom Italia. Potrete chiamare e navigare tutto il tempo che volete. Così sarete più vicini ai vostri amici, più vicini ai vostri parenti e, perché no, più vicini anche ai vostri vicini. Tutto senza limiti di Telecom Italia. Grazie anche agli incentivi statali. Se hai tra i 18 e i 30 anni, per te 190 euro di sconto. Modalità dello sconto su alice.it. E adesso avvicinatevi al telefono e chiamate il 187. Sapete la novità? Ho comprato la nuova Citroen C3 approvata a 4 ruote. Euro 5, ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroen me la valutano il 10% in più rispetto alla quotazione 4 ruote. Wow, colore? Boh. Una Citroën così puoi comprarla a occhi chiusi. Per la prima volta Citroën 4 ruote insieme per un'operazione innovativa. Scopri i 18 modelli della gamma Citroën approvata 4 ruote. Scade il 30 novembre. E adesso con Francesco Pasquali verifichiamo l'andamento del traffico sulla rete autostradale italiana con i sensori OctoTelematics. Rallentamenti sulla 9 tra Como Nord e Chiasso in entrambi i sensi di marcia, sulla 4 tra Pero e Cormano anche qui nei due sensi, sulla 7 tra Busalle e Genova Ovest e direzione Genova. Code sulla 1 tra Firenze Sud e Signa verso Bologna, sulla 3 tra Ponte Cagnano e Battipaglia direzione Reggio Calabria. Grazie Francesco Pasquali, ricordatevi che i sensori OctoTelematics sono attivi 24 ore su 24 e sul nostro sito internet www.rds.it trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale, utilissimi soprattutto per quando dovete mettere in viaggio. Alle 17:20 minuti invece arriva una sequenza di quattro grandi successi che inizia due di picche. Facile avermi sempre accanto a te. Fortuna che tu sei più avanti dei miei limiti e che sei saggia più di me. Non dire mai bye bye, non dire mai vai via. Resta insieme a me, io non chiedo di me. Ancora mai già sai che sei e sarai mia. Davanti a noi un mondo di strade che si aprono. E anche se io sto cercando ancora mille scuse, è chiaro che ora io non posso più fare a meno di te. Io non voglio più bruciare nella cenere di una sconosciuta anche fosse Venere. Io non voglio più saperne, io non posso più fare a meno di te. Ogni giorno farsi una ragazza facile non ha reso mai un uomo meno fragile. Non le voglio più vedere, io non posso fare a meno di te. Nude e mezze Gucci e Prada sgamano i ricconi manco avessero radar. Altre tipe invece fa le bigotte, se c'hai la tipa arrivano frotte tutta la notte. Ma queste pensano che non le vedo, ste reginette dell'ero sanno di plastica peggio che l'ego. Ci stavo dentro non nego, in pieno trip del mio ego, schiavo del piacere di un placebo. C'è ancora gente che parla di sesso debole ma non ha conosciuto te. Che hai un punto più sensibile che ti fa piangere per me. Oh, non dire mai vai vai, non dire mai vai via. Resta insieme a me, io non chiedo di me. Ancora mai già sai che sei e sarai mia. Davanti a noi un mondo di strade che si aprono. E anche se poi non saranno sempre solo rose, è chiaro che ora io non posso più fare a meno di te. Io non voglio più bruciare nella cenere di una sconosciuta anche fosse Venere. Io non voglio più saperne, io non posso più fare a meno di te. Ogni giorno farsi una ragazza facile non ha reso mai un uomo meno fragile. Non le voglio più vedere, io non posso più fare a meno di te. Tu m'hai tirato su dal fondo della cima, non è che salvi il mondo però è meglio di prima. Chi mi conosce da sempre ora si sorprende, mi metti a posto ma non sposti niente. Per me è un miracolo, ma quando mai è successo? Dopo tutto sto tempo, tutti i giorni videogiochi e sesso, e bevi tutto me stesso, liscio non corretto, presa bene dall'effetto. E anche se io sto cercando ancora mille scuse, è chiaro che ora io non posso più fare a meno di te. Io non voglio più bruciare nella cenere di una sconosciuta anche fosse Venere. Io non voglio più saperne, io non posso più fare a meno di te. Ogni giorno farsi una ragazza facile non ha reso mai un uomo meno fragile. Non le voglio più vedere, io non posso più fare a meno di te. Non voglio più bruciare nella cenere di una sconosciuta anche fosse Venere. Io non voglio più saperne, io non posso più fare a meno di te. Ogni giorno farsi una ragazza facile non ha reso mai un uomo meno fragile. Non le voglio. 100 grandi successi. I can see the shadows falling out. Loving you is the one thing I'll never regret. Hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken a cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad lady of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we're never apart. So dear to my heart. You sent me in a storm. You are in the winter, moonlight on the snow, and on the pond lane when the weather was warm. You must forgive me my unworthiness. Stai ascoltando Radio Gelosa. Playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. That he was with me, yeah, me. Tell it wouldn't be long. That he was with me, yeah, me. We'll be right back. Stai ascoltando Radio Gelosa. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love to touch. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Yeah. 14 novembre a San Martino di Lupari l'Expo fieristica delle più importanti attività locali. Un imperdibile fine settimana, mercato festivo, Luna Park per i più piccini e Magna San Martino, il salone del gusto. San Martino attiva, l'Expo fieristica a San Martino di Lupari, Padova, Piazzale Europa, il 12, 13 e 14 novembre. In collaborazione con Cassa di Risparmio del Veneto, OZ Italian Company, Vercar, Del Conte, CM Electronic, T-Energy, Carrozzeria Miatello, Julian Pellicce. I'm a soldier love. Every day and night I'm a soldier love. All the days of my life I've been torn up inside. You Radio Gelosa. About the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. Dall'altra parte della strada. si canta in due, passa meglio. E il fratello di una notte d'estate, ci facciamo un po' compagnia. Strada. Ehi, hey, vieni e canta insieme a me da questa parte della strada, che ci facciamo compagnia. Cerco, lo so, un altro uomo. E fratello di una notte. Dall'altra parte della strada. Ehi, hey, vieni e canta insieme a me da questa parte della strada. Tra parte della strada. Vieni e canta insieme a me da questa parte della strada, che ci facciamo compagnia, compagnia. www.radiogelosa.it è il sito per sapere tutto di lei. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Gelosa. Sono le 18 e 5 minuti. Michigan. shined upon her hair. And we were trying different things. We were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Free, free, set them free.